Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Mi dà molto fastidio l'acne. Guardi, io a parte il viso, per fortuna ho una pelle, non mi posso lamentare, ho fatto a gravidanza, quindi tutto a posto. La pelle è grassa. Dovrei avere 40 anni meno per avere una pelle diversa, ormai mi devo tenere quella che ho. E metto un pochino di crema, ma non mi faccio tutti quei pasticciamenti. No, tirare no, di certo, perché è una cosa assurda. Non sono uno che si cura, che è attento a queste robe, quindi... Ah, ecco questo, che mi si screpolano spesso le mani, d'inverno. Non metto creme perché non mi piace. Salviamoci la pelle. Salviamola, proteggiamola, coccoliamola. Buongiorno da Nicoletta. Oggi ci occupiamo di lei, della nostra pelle, di questi 2 metri quadrati di tessuto prezioso che ci avvolge, ci protegge, ci difende, che cresce con noi, racconta chi siamo, quello che abbiamo fatto, facciamo o sogniamo di fare. Ne abbiamo una sola e credo che a qualunque età convenga prendersene cura. È un bellissimo compito, un'avventura molto piacevole da vivere a 5 sensi. Osserviamola, accarezziamola, annusiamola. Qui in studio con me la professoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, è un organo straordinario che abbiamo sempre sotto gli occhi e a portata di mano, quindi... Sì, letteralmente a portata di mano. È un organo stupendo, va bene, io faccio la dermatologa. Lei è di parte. Io sono di parte, amo la pelle moltissimo. La pelle poi è brava, ha sempre ragione. Ecco, una cosa, molto spesso oggi io vedo che si tendono a reprimere dei segnali della pelle. Invece bisogna guardarli e ascoltarli e ascoltare la nostra pelle. Cercare anche di capire che cosa ci vuole dire. È spenta, è secca, ha delle chiazze arrossate, dà fastidio oppure si fa sentire? Perché la pelle in buono stato, la pelle sana, non si fa sentire. Noi non ci accorgiamo di avere un organo quando sta bene. Certo. Ce ne accorgiamo quando magari dà dei segnali di malessere. Ecco, quando tira, ad esempio. Quando tira, quando pizzica, quando dà fastidio. Oppure quando visivamente la guardiamo e diciamo com'è possibile che io sia così spenta, così grigia. Sono dei segnali che ci guidano verso un miglioramento. E no, da notare, ed è bellissima questa cosa, che quando si fanno le azioni giuste per migliorare la propria pelle, si sta meglio tutti, perché la pelle è come una fatina magica che ci guida verso il benessere totale. La nostra pelle ci vuole bene, ma ci assomiglia. Se noi stiamo passando un periodo schizzato, la pelle diventa schizzata. Se noi abusiamo della sua potenza, della sua forza, per esempio scrub, peeling, trattamenti irritanti, la pelle alla fine si arrabbia. Se noi la ipernutriamo, la pelle fa indigestione, ce lo dice, ci dice basta, ci dice alt. Per cui la pelle ci guida sempre verso il benessere della pelle è anche un segnale del benessere dell'organismo molto spesso. Quindi invece che reprimere, invece che dire voglio un illuminante per il viso, troviamo il sistema di rendere la pelle luminosa e diventiamo come dei Sherlock Holmes, e oggi penso che lo faremo, bello, per capire come fare. 800 24 00 24, allora oggi la pelle attraverso i 5 sensi, guardiamola attentamente per notare anche dei piccoli cambiamenti. Stiamo entrando in una stagione delicata, la pelle diventa particolarmente sensibile, si arrossa e prude, molti disturbi cutanei, professoressa Serri, si risvegliano proprio a primavera, parlo delle dermatiti ad esempio. Certo, perché anche con le tipiche allergie stagionali ai pollini, per esempio, si risveglia anche la pelle, la reattività cutanea, c'è un risveglio totale, c'è un risveglio anche della pelle. Si risveglia anche la pelle. Bene, intanto che voi osservate la pelle, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24, potete anche seguirci su Facebook e su Twitter. Regaliamole una coccola, accarezziamola. Si è scoperto che le cellule dell'epidermide sono in grado proprio di fabbricare sotto stimoli piacevoli molecole del tutto simili alle endorfine prodotte dal cervello, e sono quelle sostanze che produciamo proprio per autoprocurarci piacere o per tollerare il dolore. Quindi una pelle accarezzata, diciamo, professoressa Serri, che è una pelle felice, no? Certamente, che racchiude, è una pelle più felice. Che racchiude un corpo e una mente più felici. E certamente, perché c'è un meccanismo di feedback tale per cui dal cheratinocita, che è la cellula cutanea, arrivano dei segnali a livello centrale, al sistema nervoso, per cui anche l'atto cosmetico, l'applicarsi una crema, sei solo, sei triste perché sei solo, coccolati magari mettendoti una crema con un odore che ti piace. È il contatto fisico. In una città vera si cammina, si sfiorano altri passanti, si sbatte contro la gente. Qui a Los Angeles non c'è contatto fisico con nessuno. Stiamo sempre dietro metallo e vetro. È il contatto fisico. Contatto, pelle contro pelle, digitopressione, automassaggio, massaggio energia. Buongiorno al professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica. Buongiorno, bentornato. Buongiorno Nicoletta a tutti gli ascoltatori. Sono tutte parole che grazie ai suoi interventi sono diventate a noi più familiari. Bene, sono contento di contribuire così alla diffusione di queste buone conoscenze. Io penso che bisogna dire chiaramente come la pelle sia lo strumento per eccellenza, no, di questo nostro atto naturale che è proprio il massaggio. La pelle è il primo organo sistema, chiamiamolo, che si sviluppa, e il tatto è il primo senso a divenire attivo. Quindi io credo che il senso del tatto, con tutto il suo sistema propriocettivo, che è diffuso sull'intera superficie della pelle, debba essere riconosciuto soprattutto in alcune zone del nostro corpo. Per esempio, noi sappiamo che sul palmo della mano e delle dita, sulla pianta del piede, sulle labbra, ci sono delle terminazioni nervose molto più numerose rispetto ad altre zone. Questo non è un caso. Pensiamo per esempio che sul piede vi sono circa 72.000 terminazioni nervose, che sono un numero infinito rispetto ad altre zone. E che sappiamo anche che il bambino si identifica proprio con le esperienze tattili, no? Che fa nei primi sei mesi di vita. In questo senso è il massaggio l'atto più naturale che noi possiamo mettere in azione nel momento in cui vogliamo donare amore, per esempio. Si dice che toccare è far passare l'amore attraverso la pelle. E allora, amandoci, ci sono delle situazioni che dobbiamo riconoscere. Innanzitutto, se io voglio ricevere un massaggio, devo sentire la pelle, proprio la questione di pelle, no? Quel senso che mi dice che l'operatore, l'operatrice che in quel momento sta cercando di donarmi un aiuto, è per me mi la persona piace giusta. A pelle, anche perché mi devo proprio mettere nelle sue mani. Sì, questo bisogna ascoltarsi meglio, proprio sentire, in questo caso il verbo è giustissimo, no? Più che pensare. Allora, oltre alla professionalità, alla tutte le situazioni deontologiche che l'operatore deve presentare, noi dobbiamo anche percepire se ci sentiamo in una situazione di agio o di disagio, perché questo è fondamentale. E diciamo che come operatore, quale sono io, che ha la capacità magari di percepire quella che è l'empatia o la non empatia di una persona che viene a ricevere il massaggio, bisogna stare attenti. Innanzitutto è importante che non vi siano massaggi troppo dolorosi, perché l'eccesso di dolore non fa mai bene. Il nostro organismo ha dei campanelli d'allarme importanti e il dolore è uno di questi. Quindi il massaggio non deve mai essere doloroso? No, può essere doloroso in alcune zone laddove dobbiamo per esempio capire che ci sono delle contratture, però quello è più un atto di valutazione che un atto di per sé di benessere che noi andiamo a trasmettere. E a quel punto io, questo è il mio modo di pensare, ma in genere lo è anche, è quello di non eccedere mai nella forza muscolare attraverso il massaggio. Il massaggio o la digitopressione shiatsu, per esempio, devono essere rispettare un piacevole dolorino. Senz'altro, vero? È il piacevole dolorino che ci indica che da un punto di vista fisico stiamo attivando tutte quelle terminazioni nervose e quelle endorfine di cui la dottoressa parlava molto bene prima, e da un punto di vista energetico stiamo lasciando fluire l'energia attraverso i canali, i meridiani, che è una sensazione stupenda. Io stesso è dal 91 circa che lavoro su questo e devo dire che ogni giorno io mi stupisco della bellezza, del fascino e del sentire questa energia che passa attraverso i meridiani e che fa sentire le persone bene. Per esempio, una cosa importantissima, è vedere dopo un trattamento shiatsu di circa un'ora, di circa 45 minuti, la pelle del viso della persona che sembra aver dormito 4 ore, cioè c'è una risposta immediata della pelle rispetto agli stimoli del professoressa massaggio. Serri, quindi un massaggio è come una sorta di crema. Crema molto nutriente. Sono una fan dei massaggi, trovo che siano un'azione strepitosa, straordinaria, gradevole, terapeutica. La prima dermatologa, diciamo, che noi ricordiamo e che ha scritto dei trattati, Trotula de Ruggiero, era una medichessa della scuola salernitana, quindi parliamo di Medioevo, certo. Trattava, è stata la prima a scrivere proprio dei trattati scientifici, e poi è stata il suo essere femminile l'ha penalizzata, sì. Ed è stata riscoperta di recente. Trattava tutto con i massaggi. Lo stesso Grodek, padre della psicosomatica, allievo di Freud, nella sua, chiamiamola, spa di Baden-Baden, trattava tutte le patologie con i massaggi. Per cui il massaggio è, se non la terapia vera e propria, un supporto terapeutico utile sempre e comunque. Io mi preoccupo molto quando sento di qualcuno che non sopporta di essere toccato, che non sopporta i massaggi. Molto frequentemente queste persone hanno anche delle dermatosi, spesso peggiorate dalla componente psichica, non chiamiamole proprio psicosomatiche, sì, certo. Ma insomma comunque possono, con grosso coinvolgimento emotivo, che segnalano la voglia, ma contemporaneamente il timore, paura del distacco, dell'abbandono. Ecco, cioè, pensiamoci uno spunto interessante. All'idea toccati. Di essere toccati, di essere massaggiati, ci rimanda ad un'idea di relax, di piacevolezza, o a una sensazione quasi di timore, rifiuto, imbarazzo, sì. Non ci sentiamo a nostro agio. A nostro agio, e molto spesso è legato anche all'infanzia. Il bambino che non è mai stato accarezzato, e qui sottolineo quanto sia importante iniziare a accarezzare il bambino già quando è nella pancia, cioè già quando c'è la gravidanza. Si può dare delle stimolazioni tattili accarezzando la pancia in un certo modo. C'è questo gruppo di nuove operatrici della mamma, le dule, che aiutano anche a fare questo. Io ho un'amica dula, che si chiama Alice Crepax Giordana, che aiuta proprio durante la gravidanza a gestirla bene e a gestire bene il bambino. E quindi a massaggiare anche il pancione. Ma il professor Tirelli ci dà un massaggio per noi, un automassaggio, prima di salutarci, perché non può mica andare via così. No, sinceramente, ecco, vorrei rubare proprio solo 5 minuti agli ascoltatori, cioè dire 5 minuti al giorno fate questo automassaggio. Anche quando siete a letto potete appoggiare i polpastrelli delle vostre dita su tutto il viso e massaggiare delicatamente tutte le zone che per vostro istinto sentite più diciamo bisognose di cura, in questo caso proprio di carezze, di coccole. Sono digitopressioni con rotazioni, possono essere rotazioni orarie o antiorarie, quindi immagino proprio le 5 dita insieme, per esempio sulla parte laterale del nostro capo, quindi sulla parte parietale, sulla zona vicino all'orecchio, ma anche sulle guance, intorno agli occhi. Io vi sfido a fare questo, perché vi assicuro che dopo un 15 giorni di costante automassaggio per soli 5 minuti ogni mattina o ogni momento della giornata in cui vorrete, mattino meglio, voi vedrete cambiare la vostra pelle. È veramente un'autocura, diciamo che le rughe diminuiscono e la pelle è più lucente. Almeno 15 giorni, per cui se qualcuno vuole farlo da oggi, mandare la foto prima e dopo la cura Tirelli, noi siamo qui. Grazie professor Tirelli. Io provo, da stasera vado. 800 24 00 24. Grazie professore, andiamo a Nicola da Chieti, Antonella da Siracusa, Edoardo da Bologna. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Senta, io vorrei uscire un po' fuori tema, perché vorremmo chiedere ai suoi ospiti informazioni su un problema che ho di cuperosi. molto accentuata. Sì. Quali sono i metodi di cura, se si può fare qualcosa? Io ormai ho 48 anni, sì, sono un po' avanti con l'età. Vabbè, insomma, dipende. Però, sì, se ci dice ormai a 48 ormai no, anni, guardi, ci offende. Mettiamo giù. Io mi sono abituato a... Va bene, è un bimbo. Allora, Nicola ci parla di un problema molto diffuso. Ci sì. sta lui ha ormai ha 48 anni. Lei è offensivo, Nicola. A 48 anni si è nel fior fiore dell'età più fulgida. Comunque, la Cooper Rose, noi dermatologi la chiamiamo eritrosi e vuol dire rossore. Il rossore può essere temporaneo, quando va e viene a flushing, la pelle che arrossa, che avvampa, per timidezza, per emozione, per stimoli anche fisici, caldo, freddo, per cibo, oppure può essere permanente, si è sempre rossi e si possono avere essenzialmente le guance cosparse di vasellini. C'è una grossa confusione sul termine Cooper Rose, perché io sento delle persone che hanno due vasellini dilatati, sì, sulle due guance, venuzzettine. Due venuzzettine, dicono la Cooper Rose, chiaramente più visibili nelle pelli più chiare. Le pelli più scure, che producono più melanina sotto stimolo solare, hanno questa autoprotezione meravigliosa che è appunto la melanina, e difficilmente hanno una eritrosi o Cooper Rose visibile. Cosa fare? La pelle va trattata in un certo modo, va protetta dal sole, non va ipernutrita, perché non è un problema di secchezza. La Cooper Rose è un problema vasomotorio, per cui io consiglio innanzitutto, se si avvampa facilmente, di fare yoga, quindi di fare delle trattamenti che regolano il sistema nervoso autonomo, quello indipendente dalla nostra volontà. Può essere molto utile riuscire a imparare una buona respirazione, aiuta moltissimo, e anche il distacco dal problema. Quindi a monte della cura della pelle, aiuta molto l'assunzione di integratori, e ora dico una parola difficile, vasculotropi, cioè in grado di proteggere la parete dei vasellini, certo. Frutti, o mangiare molti frutti di bosco, tra poco arriverà vitamina la stagione. C, mirtilli, rusco, centella, e anche prodotti locali, quindi prodotti locali vuol dire creme o emulsioni o gel o sieri a seconda del proprio tipo di pelle, a base di molecole che proteggano la pelle dagli insulti esterni, quindi molecole... E questo anche per chi ha già 48 anni. Anche vitamina C, antiossidanti, antiradicali liberi e protezioni solari quando si va al sole. Antonella, buongiorno da Siracusa. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono la mamma, sì? Sono di 40 anni. Va bene. E volevo chiedere alla dermatologa come mantenere la pelle curata, pur non facendo uso di cosmetici particolarmente costosi, visto insomma che ho tre bimbe e la crisi. Certo, no, brava. La sua Antonella. Pelle, dice, o la pelle dei suoi bambini? La sua pelle. La pelle della mamma. Siccome si è definita una mamma, allora anzitutto sono molto contenta che lei sia una mamma, lo sono anch'io, ma lei si definisca, sono una bella donna di 40 anni che ha tre bambini, se lo dica, si guardi. Allora inizi a lavarsi bene il viso mattino e sera, trovando un detergente delicato, va bene un'acqua micellare detergente, ma anche una saponetta da toiletta detergente oppure una mousse. Io consiglio sempre di, insieme al detergente, usare o una spugnetta o un pannetto di microfibra massaggiato delicatamente sul viso. Il viso va pulito bene mattino e sera. Trovare poi una crema che piace come odore, consistenza, e che non abbia né petrolatum né siliconi ai primi posti dell'inci, quindi leggere la formula. Oggi veramente è molto più semplice di quanto certo. non si pensi. Mettere poco prodotto e iniziare con un prodotto, un idratante, un nutriente, un antiradicali liberi, un prodotto a base di vitamina C, di burro di karité, di acido ialuronico, di molecole antiossidanti. Io prediligo quelli dermo-eco compatibili, quindi quelli che piacciono sia alla pelle sia che al nostro ambiente, e quindi cominciare a vedere come risponde. Iniziare a mangiare un po' bene, respirare bene e sorridere e amarsi un po'. Essere e benessere. Ha smesso? Che cosa penserebbe se ora io le dicessi che lei è una delle più belle creature che io abbia mai visto? Penserei che pazzo sciocco gli è. E che cosa penserebbe se io la baciassi? Penserei che pazzo impetuoso, magnifico, sciocco egli è. No, no. Io devo. Dopo mangiato. La tua pelle è di una tale bellezza. Oh, sì, lo so, ne ho su tutto il corpo. Ritorniamo insieme. Continuiamo a parlare di pelle, pelle a cinque sensi, 800240024 con la professoressa Riccarda Serra. A proposito di pelle, oggi abbiamo un domandone, parliamo di ghiandole sebacee, le ghiandole che producono il sebo, che è prezioso perché lubrifica e protegge la pelle, ma ci sono parti del corpo in cui queste ghiandole non ci sono. Quali sono? 800 24 00 24, potete naturalmente chiamarci. E ho rubato alla dottoressa Serri uno dei libri. Quanti ne ha scritti lei di libri? Parecchi. Beh, calcolando anche quelli che avevo scritto, gli Oscar che avevo scritto nell'87, sì, ne ho scritti parecchi. Per questo diversi. Io posso rubargliene tre, perché sì. Due ne ho ancora nella libreria di Essere Benessere. Cambio pelle, un sì. Libro che proprio, no, è preciso per questa sì, puntata sì, e anche sì. Per questa stagione, perché in primavera ci sembra proprio sì, di cambiare sì, pelle. Sì. E con la puntata di oggi vorremmo aiutarvi proprio a fare questo passaggio sì. Nel rispetto della pelle, degli equilibri. Ecco, e amando la propria pelle, perché il primo passo è voler bene alla propria pelle, non odiarla. Volendole bene si può ottenere tutto. Ripeto, la pelle è brava, risponde sempre bene ai buoni stimoli, ma è permalosa. Ecco, e lasciate, anzi incrementate i momenti di avvicinamento, di contatto. Di contatto. Carlo ad esempio mi scrive: quando mi toccano la pelle ho sempre una sensazione di fastidio. Ecco, faccia dei, no, progressivi ma avvicinamenti. Ci sono dei perché e vedere anche come mai è arrivato a questo è piuttosto importante. Voglio il tuo profumo. Dopo averla guardata e accarezzata, adesso l'annusiamo. Il profumo della pelle cambia con gli anni, i bambini profumano di caramella, di buono, di dolce, arriva l'adolescenza che regala sentori, diciamo, un po' particolari, non sempre piacevoli all'olfatto. Afrori, afrori. Poi si cresce, gli ormoni si stabilizzano per fortuna, o non lo so, e si diventa più esperti anche nell'uso di creme, profumo, soprattutto dell'acqua e sapone. Ma a volte si eccede, la pelle si irrita, lei l'aveva anticipato, protesta, quasi a rivendicare anche il suo diritto di essere accettata così al naturale, con il suo profumo. Professoressa Serri, sì. Profumatevi, ma non troppo. Ma non troppo, ma soprattutto c'è una enorme varietà nella qualità dei profumi e delle profumazioni stesse. Non sono tutti uguali. Ci sono profumi non sensibilizzanti, o perlomeno molto meno sensibilizzanti di altri, di alta qualità. Per cui è molto importante scegliere le profumazioni ammesse dai disciplinari dell'ecodermocompatibilità sono sicuramente più sicure per la nostra pelle. Bisogna stare molto attenti a non usare i profumi troppo ricchi di una molecola che si chiama ftalati, e che sono quelle profumazioni che si trovano molto frequentemente in circuiti di acquisto strani che magari arrivano dall'Oriente, eccetera. Stiamoci attenti soprattutto con c'è i nostri scritto? Bambini. Cosa leggiamo? Ecco. Non leggiamo niente, dobbiamo solo acquistare prodotti sicuri, in circuiti sicuri, questo è importante. Per quanto riguarda l'odore, io ogni tanto mi visualizzo se capitassimo in una giornata medievale qualsiasi, sverremmo a una cena con dame e cavalieri o del Settecento. Immaginatevi quanti odori terrificanti sentiremmo. Per cui anche il senso dell'olfatto è educato. Noi medici siamo molto aiutati dal senso dell'olfatto, perché mi ricordo mio nonno era un vecchio medico, anche mio zio, il fratello maggiore di mio padre erano medici, che la prima cosa che facevano con un paziente lo annusavano. Annusavano l'alito, ma annusavano anche la pelle, perché l'odore della pelle dice moltissimo. Che adesso sarebbe un po' imbarazzante entrare in ambulatorio. Sì, se vediamo un medico che annusa un paziente viene denunciato per però noi possiamo per anche annusare. Noi riusciamo. Io annuso perché è molto importante. Ma se io mi annuso? Io riesco a scoprire parecchie cose dall'odore. Comunque, come ormai sono un medico di una certa età, per cui ho una certa esperienza e sensibilità. Ma l'odore è importante anche per attrarci o repellerci da qualcuno, perché avrete infatti, notato che certe dice, persone... una persona mi piace a pelle. È il pesce di nome Wanda. Vi ricordate quel film dove lui si eccitava moltissimo quando si annusava le ascelle? Che era... E dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te. Ci sono persone che si piacciono a pelle, un feeling orchestrato da afrodisiaci olfattivi naturali. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Emanuele Iannini, docente di sessuologia medica dell'Università degli Studi dell'Aquila. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, ben ritrovati. Galeotto fu il ferormone. Ah, sì, certamente. La pelle è il più grande organo sessuale, è il più esteso degli organi sessuali, che parla agli altri individui attraverso dei segnali che sono appunto noti come ferormoni, che letteralmente vuol dire ormoni che portano a sé, che attraggono, lo usano tutti gli animali, e anche noi sottilmente abbiamo dei segnali ferormonali che ci fanno dire per l'appunto quella persona mi piace, non so perché, ma mi piace a pelle. Professore, la pelle, il profumo della nostra pelle tendiamo a coprirlo, siamo tutti naturalmente profumati, a volte per sentirci anche proprio più a nostro agio, ma con questa copertura i feromoni come si comportano? Ma sia gli odori sia i feromoni sono certamente in qualche modo soppressi dalla invasività profumata della profumazione chimica. Io direi che sostanzialmente c'è poco da fare ormai, perché la nostra cultura, prima si faceva riferimento al Medioevo o al fetido Settecento, dove ci si lavava pochissimo e ci si profumava moltissimo per coprire appunto gli odori, la nostra cultura ormai non ci permette di tornare indietro, e quindi dobbiamo abituarci a essere un po' più sordi ai segnali naturali della nostra pelle, e in cambio però abbiamo appunto questi profumi che l'industria, la chimica ci propone. E comunque possiamo dire, professore, che la pelle non sbaglia, e quindi diffidarci delle persone che ci piacciono a pelle? Ci avventuriamo? Direi assolutamente di sì, c'è una larghissima produzione scientifica che addirittura mette in relazione le scelte sentimentali e sessuali sulla base appunto di questi segnali, che in qualche modo addirittura danno un segno della bontà genetica del partner o della bontà immunologica, della competenza immunologica del partner. Quindi sono dei segnali in realtà che vengono molto da lontano, perché li abbiamo in comune con gli animali, ma che sono molto onesti, per così dire, della bontà delle nostre scelte. Quindi quando la pelle, quando avvertiamo una persona che ci piace a pelle, fidiamoci. Il nostro profumo di donna è un altro film che magnifico. Ricorda proprio questo, assolutamente sì, si può essere ciechi ma sentire l'amore addirittura solamente attraverso questa comunicazione importantissima, che è la comunicazione olfattiva e quella feromonale. Grazie professor Iannini, a presto, a buona giornata. Sì, in effetti io devo dire, proprio mia esperienza diretta, io mi sono sempre accorta della fine di mie storie d'amore quando iniziavo ad avere una specie di senso di disagio, diciamo disagio, davanti all'odore del mio partner, odore che magari mi era quello che all'inizio. Il disagio, quel sentire. Se la pelle del nostro compagno, della nostra compagna, inizia a non piacerci più, attenzione. Essere e benessere. annusiamo, accarezziamo la nostra pelle, la massaggiamo, la tocchiamo. È una puntata che, parlando di pelle, ci fa, dottor professoressa Serri, anche pensare molto al rapporto che abbiamo con gli altri, con noi stessi. Abbiamo proprio tanti segnali, sì, che ci portano a capire che come noi stiamo dentro la nostra pelle, e il rapporto che abbiamo con la nostra pelle parla molto del nostro equilibrio e del momento che viviamo. Certamente. Inoltre, la pelle è l'organo di comunicazione numero uno. Certo. La pelle ci presenta e ci dice degli altri, non solo, ma comunica anche. Edoardo da Bologna, 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti. Sono, premetto che sono sposato, ho una figlia e due stupendi nipotini. Ecco, da più di 10, direi quasi 15 anni, ogni sera uso la crema da notte viso e poi contorno occhi. E ci tengo molto alla mia pelle, finisco la doccia per esempio e poi mi spalmo la crema su tutto il corpo e quindi si cocco. Edoardo, fa bene, da 10 anni ha fatto questa svolta? Perché prima non si curava? No, prima diciamo mi curavo, ma non un così po' tanto. Così invece Edoardo ha un metodo, una costanza, professoressa Serri, che è quella su cui, sì, voi insistete. Però dire fa benissimo, il contorno occhi è utile soprattutto se sul viso si mette magari una crema tipo acida che a contatto degli occhi non va bene, perché non è che sia proprio indispensabile avere un prodotto contorno occhi a parte, a meno che non ci siano problemi specifici. Questo per semplificare, sì, e per anche, risparmiare un e po'. Per risparmiare. Mi chiedono molto frequentemente le persone, ma le creme vanno cambiate? Sì, anche le creme sono un po' come un menù della dieta, cioè Edoardo dice, io metto la crema tutte le sere, è come dire, io faccio la cena tutte le sere, che cosa mangi? Magari è anche bello ogni tanto alternare principi attivi, per esempio quando ci si espone al sole nella bella stagione, usare più molecole antiradicali liberi, vitamina C, vitamina E, resveratrolo, antociani. Quando arriva l'inverno, magari creme un pochino più ricche di fattori nutrienti. Nelle donne, anche prima del ciclo, la pelle è un po' più grassa e più reattiva, per cui occorrono magari prodotti più lenitivi e meno ricchi. Nelle fasi dopo il ciclo la pelle è più secca, per cui bisogna cambiare le creme soprattutto in base a come sta la propria pelle, a come stiamo noi, a cosa mangiamo, perché anche quello è importante, e alla stagione. E queste funzionano proprio come dei nutrimenti proprio che noi assumiamo, esatto, dall'esterno, esatto, perché la pelle mangia, gusta. La pelle mangia, gusta, le piace o non le piace qualcosa. Ecco, bisogna io vorrei darle il giusto, non lei troppo. Spesso ci dice attenzione a non nutrire eccessivamente la pelle, nutrire nel senso di usare quantità eccessive di prodotti e troppi prodotti, perché la pelle, come noi, e questo è un momento per parlare del gusto, no? Esplorare la pelle attraverso il gusto, può fare indigestione. Allora ci sono dei segnali che è importante che noi conosciamo, sì, per dare alla pelle un attimo di stop, relax, tregua, senza troppi, sì, tingoli. La pelle disintossichiamola, ecco, e depuriamola un po', esattamente. I prodotti cosmetici sono certamente utili a renderci più belli, a svolgere delle funzioni, ma certamente sono un po' come cibo per la nostra pelle, hanno proprio una funzione di dare i nutrienti essenziali che sono utili, ma non è che la pelle del suo non sappia produrre sostanze, per cui è importante usare cosmetici senza esagerare. Se si esagera la pelle fa indigestione, come lo si vede? La pelle inizia a tirare, ecco, la pelle dà fastidio, uno se la sente tirare, pizzica, quello è uno dei primi segnali. Tira anche se è lucida, per cui diventa più spessa e uno dice, ma come? Ho la pelle secca che tira, eppure sopra è lucida e grassa. La pelle diventa spenta, diventa come la chiamiamo noi, asfittica, è quella pelle che non respira, è soffocata, i pori si dilatano, possono arrivare anche delle chiazzette desquamanti, soprattutto magari ai lati del naso, può arrivare addirittura qualche dermatosi cosmetogena, cioè legata all'abuso o uso incongruo di cosmetici, come una leggera dermatite seborroica, può slatentizzarsi, oppure possono esserci proprio delle macchie irritative. O molto più semplicemente, la pelle è brutta. Ecco, proprio un aggettivo che... Quindi nutriamola, occupiamoci di lei, accarezziamola da dentro e da fuori. A proposito di carezze, stiamo ascoltando un brano di un compositore molto amato, è Maurizio Mastrini che è in linea con noi. Ciao Maurizio, dovrei chiamarti maestro, ma noi ci diamo del tu. Ciao Maurizio. Va benissimo Maurizio, buongiorno. Ciao. Nell'album che sta riscuotendo grande successo, che si intitola Fly, Maurizio, noi ti abbiamo coinvolto proprio perché la musica funziona spesso da carezza per la nostra pelle, o comunque in qualche modo ci sono anche brani che fanno venire la pelle d'oca. Insomma, c'è una rispondenza tra musica e pelle. Assolutamente sì, te lo confermo, anche perché la pelle è la parte più estesa del nostro corpo che ha sensibilità, e dunque una carezza te la puoi fare sulla fronte, sui piedi, sulle gote, ma se ci abbini anche della musica, ecco che arrivi a un'esperienza multisensoriale fantastica. In effetti, Maurizio, ci sono delle indagini che hanno mostrato come un compositore, un musicista, sente la musica in modo differente rispetto al pubblico che magari non è granché esperto di musica. Ma per degustare un brano proprio a cinque sensi e farlo arrivare alla nostra pelle, quali consigli dai? Ma io, guarda, consiglierei, e sono esperienze che ho già avuto, magari essere immersi in una vasca termale, avere un pianoforte a bordo della vasca che suona, avere una brava massaggiatrice vicino, ecco che... Brava massaggiatrice o massaggiatore o massaggiatore, dipende. Certo. Senti, tra l'altro tu mi citi questo, ma tu sei famoso per, di te è stato detto, il pianista al contrario. Sì. Ma anche il pianista della natura, perché tu hai proprio fatto dei tuoi concerti proprio immerso nella natura, sempre proprio a stretto contatto, a proposito di pelle. Assolutamente sì, c'è qualche giornalista che dice che io do musica e do voce alla natura. Sì, a me piace sperimentare, piace portare la musica in luoghi inusuali. Mi è capitato, ecco, come parlavo prima, di tenere un concerto dove il pubblico stava a mollo in acqua termale. Mi è capitato di suonare e presentare un brano fuoco sull'Etna a 2600 metri con l'Etna in eruzione. Mi è capitato di suonare all'alba la mattina a Porto Cervo un anno quindi, fa. Quindi, ecco, insomma, una musica proprio a cinque sensi. Tra l'altro sei reduce da Lione, un concerto di cui si è parlato molto, so che poi andrai a Rio e poi alla fine comunque tornerai qua in Italia e noi ti verremo ad ascoltare. Grazie Maurizio Mastrini. Grazie, a te. Rossana dalla provincia di Reggio Emilia, mi dicono che ha la risposta giusta. Rossana, se deve dirla in 10 secondi. Le palme delle mani e dei piedi. Bravissima! Ah, grazie. E le piante dei piedi, sì. Va benissimo. Esatto. Va benissimo. Grazie, io devo salutarvi. Professore, arrivederci a tutti. Grazie a Rossana al libro, a domani, buonissima giornata. Essere e benessere.